Eccomici sono, buon pomeriggio e bentrovati. Siete rigorosamente in diretta su CRMP Radio all'interno di Semplicemente Insieme, naturalmente in mia compagnia, in compagnia di Jerry. Oggi mercoledì 9 gennaio 2013, sono le 15:25. Come sempre Jerry è in ritardo. E vabbè, oh, è capito, ormai questo fa parte di me. Allora vi ricordo intanto subito i numeri per le vostre dediche, le vostre richieste, anche perché no, per farmi un semplice saluto: il 335 56 37 251. E ancora allo 0921 92 32 92. Vi ricordo che potete seguirmi in diretta streaming al nostro sito, che vi ricordo che è il www.crmepiradio.it, oppure ancora sul nostro portale Facebook. Se non siete ancora amici, basta andare su Facebook o scrivere CRMP Radio, cliccare mi piace, così entrerete anche voi a far parte della nostra community. Ecco che io comincio subito a impaperarmi, perché vabbè, sì, sono tante le cose che devo dirvi e quindi mamma mia. E allora, visto che già sono in ritardo, direi di partire subito con la bella musica e di cominciare. Sì, cominciamo! Bene, Katy Perry. Secondo la rivista americana Men's Health, la più hot del 2013 è proprio la pop star, appunto Katy Perry. La cantante californiana ha avuto la meglio su oltre 99 bellezze nella classifica che il mensile stila ogni anno. Dietro di lei Mila Kunis, recentemente eletta come più sexy donna vivente, Christina Hendricks e Jennifer Lawrence. Nella top 100 delle hottest women non compare nemmeno un'italiana. Aia. Poi a seguire c'è Jennifer Aniston, invece, che guadagna la quinta posizione e si prende anche una bella rivincita sull'ex rivale Angelina Jolie, che deve accontentarsi del settimo posto, ahimè, cose che capitano. Il fascino intramontabile invece di Scarlett Johansson resiste a metà classifica davanti a Beyoncé, che è pronta per partire per il Super Bowl del 3 febbraio, e la super top model Gisele Bündchen arriva appena nona, seguita da Amber Heard. Ma com'è non c'è un'italiana in questa classifica? Uffa! Ma dico, ci sono tante belle donne, tante belle, sexy donne italiane, eppure in questa classifica non ne compare nemmeno una. Ma non mi piace sta cosa, no no, assolutamente no no. Mi sa che è stato taroccato sta cosa. No vabbè dai, scherzo, non lo so, boh. Vedremo, chissà cosa succederà. E noi continuiamo sempre con la buona musica, siete sempre in compagnia di Jerry, lo ricordo naturalmente a chi si fosse messo in collegamento solo in questo istante. Voglio trovare un senso a questa sera, anche se questa sera un senso non ce l'ha. Voglio trovare a questa vita, anche se questa vita un senso non ce l'ha. Voglio trovare un senso a questa storia, anche se questa storia un senso non ce l'ha. Tante cose, anche se tante cose un senso non ce l'ha. A proposito del grande Vasco, beh, è prevista una grande sorpresa entro la fine del mese. Beh, l'ultimo post apparso nel primo pomeriggio di lunedì sulla pagina ufficiale Facebook di Vasco Rossi è firmato la redazione. Al post è allegata una foto del rocker di Zocca davanti a un leggio in quello che sembra proprio uno studio discografico, immediata la reazione dei fan. Attendendo la sorpresa del Blasco nazionale, quindi non resta, sicuramente con un nuovo singolo, non resta che accogliere con sollievo la notizia insita nella notizia, vale a dire che il popolarissimo cantautore ha recuperato una condizione fisica buona dopo i tanti guai di salute che lungo tutto il 2012 avevano fatto addirittura temere per la sua vita. Già alla vigilia delle feste, infatti, Vasco Rossi aveva pubblicamente comunicato che stava meglio e che si stava rimettendo dall'infortunio e si era sbilanciato a promettere fan qualche live nell'estate a venire. Insomma, tra questa enunciazione e qualche foto che lo mostra nel suo habitat naturale, in uno studio, nell'atto quindi di mimare un riff di chitarra come tante volte lo abbiamo visto sul palco, c'è tutto per pensare che le dimissioni da rockstar presentate qualche tempo fa vengano ritirate, beh, per la gioia di milioni e milioni di fan. Beh, siamo contenti che un cantante e un cantautore come lui continui ancora a farci ascoltare le sue bellissime, bellissime, straordinarie canzoni. E allora noi andiamo avanti e continuiamo con la musica, sì, non perdiamo tempo, largo e spazio alla bella musica di CRM Happy Radio. Questa mia canzone arrivi a te. Ti porterà dove niente, nessuno ascolterà. La canterò con poca voce, sussurrando te. Arriverà prima che tu ti addormenterai. E se se mi sognerai, dal cielo cadrò. E se domanderai, da qui risponderò. E se tristezza e vuoto avrai, da qui cancellerò. Okay, granny out the armchair. is my girl. E sono sempre qui con voi, naturalmente, all'interno di Semplicemente Insieme. E adesso arriva lui, Luca di Rizio, Calma e Sangue Freddo. E su questa canzone saluto Margherita, ti raccomando, calma e sangue freddo, Cerco di trovare la mia identità senza chiedere aiuto, ma sono lontano. Busso e non risponde neanche un'anima. Meno male che non ho paura del buio. Non ho niente per me, ma non dispero. Mangio solo pare cattiveria ormai, e non è un buon motivo per esserne fiero. Cammino da solo e non mi volto mai. Non posso perdere. Disposto a sbagliare solo per crescere. Non so come. Ci vuole calma e sangue freddo. Calma, ci vuole calma e sangue freddo. Oh, yo, yo, oh, yo, yo. Calma e sangue freddo. Calma, ci vuole calma e sangue freddo. Uomo tutta l'aggressività, ma non posso privarmi del nome che porto. Conscio di una brutta popolarità, perché a volte mi faccio giustizia da solo. Odio nascondermi e mendicare. Credo solo in quello che fa bene a me, e non chiedo alla vita niente di speciale. Cammino da solo e non mi porto mai. Continuo a correre. A sbagliare solo per crescere. Non so come. Ci vuole calma e sangue freddo. Calma, ci vuole calma e sangue freddo. Oh, yo, yo, oh, yo, yo. Calma e sangue freddo. Calma, ci vuole calma e sangue freddo. E prendo di mira il peggio, il futile, gli stolti e tutti i re. Non presto favori per poi riceverne, per non so come. Ci vuole calma e sangue freddo. Calma, ci vuole calma e sangue freddo. Oh, yo, yo. Calma e sangue freddo. Calma, ci vuole calma e sangue freddo. Calma e sangue freddo. Calma, ci vuole calma e sangue freddo. Calma e sangue freddo. Calma, ci vuole calma e sangue freddo. Capito, Margherita? Quindi calma e sangue freddo, ti raccomando. E tu sei sempre un po' agitatella. Bacione, un bacione a Margherita. Ciao Margherita. A proposito di calma e sangue freddo, beh, mangiare con calma, quindi masticando ogni boccone per 30 secondi, sarebbe questo il trucchetto che potrebbe aiutare a perdere qualche rotolino senza sacrifici eccessivi, almeno secondo i risultati di una ricerca condotta dalla Bergman University e pubblicizzata poi sulla rivista Appetite. Beh, secondo gli scienziati, l'ingrassamento non sarebbe determinato solo da ciò che si mangia, quindi, ma anche dal modo in cui lo si fa. In base alle conclusioni, quindi, il tempo ideale da dedicare alla masticazione di ogni singolo boccone, quindi, è di 30 secondi. Sentito, mi raccomando, 30 secondi. Questo stratagemma, quindi, aiuta a ridurre il senso di fame durante il giorno. Le persone che masticano pazientemente mangiano la metà degli snack rispetto a coloro che ingoiano praticamente il cibo rapidamente. Questo metodo ha potenti effetti sull'appetito durante la giornata, quindi chi mastica di più ha più possibilità di tenere a freno l'impulso a fare merenda e a sgranocchiare snack, quindi cioccolatini, caramelle, arrivando quindi ad assumere la metà del quantitativo di cibo quotidiano ingerito rispetto quindi agli altri. Quindi mi raccomando, masticate 30 secondi con calma. Questo sicuramente vi aiuterà tantissimo, questo è quello che dicono gli esperti, quindi fatelo, mi raccomando. E noi andiamo avanti e continuiamo ancora con la bella musica. Behold, oh baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Well, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told. Non so se tornerai, non so se ci sei, non mi chiami mai, no no. E già l'amore femmine. Su questa canzone saluto Silvio che ce l'ha richiesta sempre qui al 335-56-37-251 e ancora vi ricordo lo 0921-92-32-92. At the end of the road, and you lost. your soul. Your faith walks on broken glass, and the hangover doesn't pass. Nothing's ever built to last. You're in ruins. Siete all'interno di Semplicemente Insieme, naturalmente rigorosamente in diretta su CRMP Radio. Adesso arriva lei, Laura Pausini, e su questa meravigliosa canzone saluto una nostra radioascoltatrice fidatissima, Chiara. Avrai gli occhi di tuo padre e la sua malinconia, il silenzio senza tempo che pervade la marea. Arriverai con la luna di settembre che verserà il suo latte dentro me, e ti amerò come accade nelle favole per sempre. Ti aspetterò senza andar via, chiama sulla scia di un'altra età, ballando sogna mentre la tenera luce dell'est all'alba illumina speranze e ginestre, e il cielo è così celeste. Avrai libri, sandali e secchielli, luminosi amarcordi, saranno neri come i miei tuoi capelli, ma in un attimo lo so, volerai via verso l'isola lontana di una città, come ho fatto un giorno anch'io, amore mio, perché il sole può scordarsi della luna. Ti aspetto. A proposito di Laura Pausini, beh, torna nel 2013 con un eccezionale regalo per i suoi fan. Infatti sarà la guest star del nuovo album di Josh Groban, 25 milioni di dischi nel mondo, che l'ha scelta per E ti prometterò. Emozionante duetto in italiano incluso in All That Echoes, il nuovo album del cantante americano che uscirà il 5 febbraio 2013. L'artista italiana ha più amata del mondo, quindi ritrova l'amico e collega dopo oltre 10 anni per duettare, quindi su un brano inedito. Laura e Josh infatti si sono conosciuti nel 2002 a Oslo in occasione del concerto per i premi Nobel, durante il quale avevano cantato la famosissima canzone Imagine di John Lennon insieme a Carlos Santana, Willie Nelson, Jessica Lange e Anthony Hopkins. Questo ulteriore attestato di stima internazionale arriva a poca distanza dalla nomination per il premio Lo Nuestro, che ogni anno viene assegnato agli artisti più amati della musica latina. Laura infatti candidata nella categoria miglior video con il brano Non ho mai smesso in versione spagnola. Bene, un grande in bocca al lupo alla nostra Laura nazionale, che tra poco diventerà mamma di una splendida bambina, quindi tanti auguri. E noi andiamo avanti sempre con la bella musica, siete sempre in compagnia di Jerry all'interno di Semplicemente Insieme. Never ask why. Where there is his Bene, bene, bene. Stavo leggendo una notizia, no? Io bevo molto, cioè chi se ne frega, vabbè, io lo dico uguale, delle bevande dietetiche. Beh, a quanto pare le bevande gassate, dietetiche quindi appunto, sono un attentato per la linea, anche quando non contengono zucchero. Aia! Quindi questo lo affermano gli esperti della University of Texas di Sant'Antonio, secondo cui ci sono effetti sui reni, sui denti, ma anche sul metabolismo e persino sul peso, anche se le compagnie le pubblicizzano come un aiuto per la dieta. Sharon Fowler, che è tra i ricercatori che hanno condotto lo studio, spiega che se si è sovrappeso e si bevono bibite gassate dietetiche, c'è un rischio ancora maggiore di guadagnare chili. Ne basta uno al giorno per avere un aumento 5 volte maggiore della circonferenza dell'addome in 10 anni rispetto a chi non ne beve affatto. Aia, che brutta notizia. Come spiega l'esperta, il corpo è progettato in modo tale che a un sapore dolce sia legato un'assunzione di calorie. Se il sapore dolce arriva ma non c'è niente da bruciare, il corpo impara e il metabolismo rallenta. Inoltre non si raggiunge mai il senso di sazietà e questo porta a introdurre più calorie. Avete capito? Io che ne bevo, che mi piacciono, poi tra l'altro le bevande gassate, anche quelle dietetiche, quindi senza zucchero, beh, dovrò imparare praticamente a metterle di lato, quindi, e bere tanta acqua, solo tanta acqua, che quella sicuramente non ci fa male. Siete d'accordo con me, no? Beh, se siete d'accordo con me, fatemelo sapere, sempre al 335-56-37-251 o ancora allo 0921-92-32-92 oppure sul nostro sito che è www.crmepiradio.it oppure ancora sul nostro portale Facebook. Mi raccomando, fatevi sentire! Sono un peso per me stessa, sono un vuoto a perdere. Sono diventata grande senza neanche accorgermene e ora sono qui che mi guardo crescere la mia cellulite e le mie nuove consapevolezze. Consapevolezze. Quanto tempo che è passato senza che me ne accorgessi. Quanti giorni sono stati quasi eterni. Quanta vita che ho vissuto inconsapevolmente. Quanta vita che ho buttato via per niente. E ho buttato via per niente. un'altra da me stessa. Sono un vuoto a perdere, sono diventata questa, senza neanche accorgermene. Me not working hard, yeah right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull, Naya, Neo, that's right. Queen and make love to you endless. It's insane the way the name growing, money keep flowing, hustlers moving silent, so I'm tiptoeing, so keep blowing. I got it locked up like Lindsay Lohan. Put it on my life, baby, I'm gonna give you a ride, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight. Excuse me, and I might drink a little more than I should tonight, and I might take you home with me if I could tonight, and baby, I'ma make you feel so good tonight. Might not get tomorrow. Yo, girl, what I'm involved with is deeper than the Masons, baby, and it ain't no secret. My family's from Cuba, but I'm an American. I don't get money like secrets. Put it on my life, baby, I make it feel right, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight, darling. Excuse me, and I might drink a little more than I should tonight, and I might take you home with me if I could tonight, and baby, I'ma make you feel so good. Might not get tomorrow. Sono ancora qui con voi, siete all'interno di Semplicemente Insieme, naturalmente in compagnia di Jerry, e su questa bellissima canzone di Jovanotti. Beh, saluto Gaetano che in questo momento mi sta ascoltando. Un bacione, Gaetano, fai il bravo. Un bellissimo spreco di tempo, un'impresa impossibile, l'invenzione di un sogno, una vita in un giorno, una tenda al di là della duna, un pianeta in un sasso, l'infinito in un passo, un riflesso di sole sull'onda di un fiume, son tornate le lucciole a Roma, nei parchi del centro l'estate profuma, una mamma, un amante, una figlia, un impegno, una volta una nuvola scura, un magnete sul frigo, un quaderno di appunti, una casa, un aereo che vola. Baciami ancora, tutto il resto è un rumore lontano, una stella che esplode ai confini del cielo. Baciami ancora, voglio stare con te, inseguire con te tutte le onde del nostro destino. Una bimba che danza, un cielo, una stanza, una strada, un lavoro, una scuola. Un pensiero che sfugge, una luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto, un diamante, un difetto, uno strappo che non si ricuce. Un respiro profondo per non impazzire, una semplice storia d'amore. Un pirata, un soldato, un dio da tradire, l'occasione che non hai mai incontrato. La tua vera natura, la giustizia del mondo che punisce chi ha le ali e non vola. Baciami ancora, tutto il resto è un rumore lontano, una stella che esplode ai confini del cielo. Oh, baciami ancora, voglio stare con te, invecchiare con te, stare soli io e te sulla luna. Coincidenza e destino, un gigante e un bambino che gioca con l'arco e le frecce, che colpisce e poi scappa, un tesoro, una mappa e l'amore che detta ogni legge. Per provare a vedere che c'è laggiù in fondo, dove sembra impossibile stare da soli, a guardarsi negli occhi, a riempire gli specchi con i nostri riflessi migliori. Baciami ancora, voglio stare con te, inseguire con te tutte le onde del nostro destino. Baciami ancora. Make me dancers may be on the floor, hey, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. When you feel as only you'll know how. Sway me smooth, sway me now. When you feel as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Sway me, baby, make me sway as only. Sono ancora qui con voi, sono le 16.36 e 23 secondi, siete in diretta rigorosamente su CRMP Radio all'interno di Semplicemente Insieme, ancora una mezz'oretta da trascorrere insieme a me, naturalmente alla bella musica di CRM. Adesso arriva lei, Gianna Nannini. Ogni tanto mi sorprendo, un po' ti invento, un po' ti dai. Ogni tanto perdo il filo, forse non ci sei. Non hai nome, chi ti crede, fiore di ninfe. Duri un attimo, ogni tanto fai spavento, prendi tutto e non ti fermo. Amor che nulla hai dato al mondo, quando il tuo sguardo arriverà, sarà il dolore di un crescendo, sarà come vedersi dentro. E su questa bellissima canzone saluto Marcella che ce l'ha richiesta al 335-56-37251. E a proposito di Gianna Nannini, beh, presenta a TG Como 24 il CD Inno. un inno al dolore, ma anche alla consapevolezza che l'amore non è eterno. Un ricordo affettuoso anche a un grande amico che non c'è più, e spazio alla collaborazione, quindi all'interno di questo album, con Tiziano Ferro nel singolo Nostra Storia. E un messaggio affettuoso alla figlia Penelope nel brano Ninna Nain. Gianna Nannini quindi è tornata con questo nuovo album, inno, pieno di grinta e fiducia per il futuro, come rivela appunto al TG Combo 24, e dice: ho messo al mondo Penelope per cambiarlo, quindi per cambiare questo mondo. Beh, speriamo che questo mondo cambi in meglio, noi lo speriamo naturalmente, perché sì, c'è bisogno proprio che cambi, sì, direi proprio di sì. E noi andiamo avanti, continuiamo con la buona musica, siete sempre in compagnia di Jerry, vi ricordo che potete seguirmi ancora in diretta streaming al nostro sito www.crmpiradio.it, dove poter fare le vostre richieste, e anche su Facebook, quindi aspetto con ansia i vostri messaggi. I laced the track, you locked the flow. So far from hanging on the block of dough. Notorious, they got to know that life ain't always what it seemed to be. Words can't express what you mean to me. Even though you're gone, we still a team. Through your family, I'll fulfill your dreams. In the future, can't wait to see if you open up the gates for me. Reminisce sometime, the night they took my friend. Try to black it out, but it plays again. When it's real, feeling's hard to conceal. Can't imagine all the pain I feel. Give anything to hear half your breath. I know you're still living your life after death. Yeah. che fai. Se ci credi, chissà che fai, chissà ci penserai. Tu come stai? È qualche mese che non ci sei. Vedrai, mi scriverai. Ma come stai? Come stai? Come stai? Mi piaci tu. Sound of silence, the cars were cutting like knives in a fist fight. And I found you with a bottle of wine, your head in the curtains, and heart like the 4th of July. You swore and said, we are not shining stars. This I know, I never said we are. Though I've never been through hell like that, I've closed enough windows to know you can never look back. If you're lost and alone, or you're sinking like a stone, carry on. May your past be the sound of your feet upon the ground. Carry on. Carry on, carry on. With some friends at the edge of the night, at a bar of 75. And we talked and talked about how our parents will die, all our neighbors and wives. But I'd like to think I can cheat it all, to make up for the times I've been cheated on. And it's nice to know when I'm smiling. E sono ancora qui con voi, sono le 16.54, bene, ancora qualche minutino da trascorrere insieme a me. Beh, io al solito vado alla ricerca di notizie e ne ho letta una che devo dire simpatica. Praticamente diciamo che quando si viaggia, no, durante i viaggi in aereo, no, capita che qualcuno nella fretta di scendere dal velivolo dimentichi a bordo qualche oggetto. Beh, può capitare, giusto? Beh, un sondaggio ha evidenziato che ad una persona su tre capitano di dimenticare qualcosa, quindi in aereo, e ha individuato gli oggetti che vengono dimenticati più di frequenti. In cima alla lista ci sono quindi i libri, per esempio, i cellulari, i giornali, che quelli, quindi, che sono gli oggetti più dimenticati. Quello che colpisce però in questa lista è che c'è gente che si dimentica degli oggetti un po' insoliti, come per esempio le mutande, poi le dentiere e vabbè gli anelli nuziali. Ma come si fa a dimenticare? Ma i misteri, questi sono misteri, misteri, misteri. Può capitare, cose che capitano, e vabbè, pazienza, questo lo dice un sondaggio, ma sarà vero? Ma non lo so, non lo so, voi che dite? Beh, che è più normale che una si dimentichi un libro, un cellulare, un anello, che ne so. Ma le mutande? Ma ti guardo per l'ultima volta mentre vado via, ti ascolto respirare, non scatto la fotografia, non porterò nessuna traccia dentro me, niente che dovrò rimuovere. Se hai giocato è uguale, anche se adesso fa male. Se hai amato era amore, non è mai un errore. Era bello sentirti e tenerti vicino, anche solo per lo spazio di un mattino. Ti guardo per l'ultima volta mentre vai via, ti vedo camminare e come per magia. Non sarai pensieri, non sarai realtà. Sai che bello, sai che felicità. Se hai sbagliato è uguale, anche se adesso fa male. Se hai amato era amore, non è mai un errore. Era bello guardarti e tenerti per mano, o anche solo immaginarti da lontano. E se hai mentito è uguale, ora lasciami andare. Non è mai un errore. Era bello sentirti, rimanerti vicino, perché solo per lo spazio di un mattino entrerò nei tuoi pensieri di una notte che non dormi e sentirai freddo dentro. Entrerò dentro ad un sogno quando è già mattino, e per quel giorno tu mi porterai con te. Se hai giocato è uguale, anche se ancora fa male. Ma se hai amato era amore, e non è mai un errore. Solo nella luce del mattino. Se mentito è uguale, ma ora lasciami andare. Se hai amato l'amore, non sarà mai un errore. È stato bello perché tu sai a me quel che sei, non l'hai raccontato mai. Ed ora mi è più chiaro che sei tu che giochi con me. E poi vado via perché per bella come sei cambierei un'altra volta idea. E poi l'ingenuo sono io, un ciao dentro un addio. Ma va bene così, me ne vado. Tutti quanti ci passano, lo sai, e quello che rimane dell'oblio è un ciao dentro un addio. Ma va bene così, me ne vado, oh, perché io con te. Questa era l'ultima canzone in programma per oggi all'interno di Semplicemente Insieme. Io vi do l'appuntamento naturalmente a venerdì intorno alle 15:15, sino naturalmente alle 17. Adesso vi lascio con i programmi di CRMP Radio, con CRMP Radio Happy Talent, insieme al nostro amico Santi Genovese e naturalmente a tutti i suoi ospiti. Non mi resta che augurarvi quindi un buon proseguimento, una buona serata e, come dico sempre io, fate i bravi. Ciao ciao, alla prossima, venerdì. Semplicemente